mio non dorme mai, da che di un altro detto sei, parego mio non mi sei, amore mio non lo sei mai, ma nel fondo il cuore tuo. C'è un ragazzo, sono il blu. Ma chi l'ha detto, ma perché, non devo di pensare a te, nessuno sa chi sono io, il primo bacio è stato mio, e impazzito senza me. Ogni notte ti rivedo accanto a me. Yeah.